ma ci ripenso ogni tanto a te. Qualche musica indiscreta mi fa uno strano effetto. Ma che vuoi farci se penso a te? Non faccio mica apposta, è un po' come un folletto. Si crede simpatico a ricordarmi che potrei vivere di ricordi. Che magico scherzetto, scordare la realtà in fondo altro che. È vita molto comoda, ma umilia l'intelletto. Ma ci ripenso ogni tanto a te. Qualche fredda mattina mi fa uno strano effetto. Ma che vuoi farci se penso a te? Non faccio mica apposta, è colpa dell'affetto. Rileggo qualche riga e poi cioè la pellicola va indietro. Mi fa questo dispetto e poi mi manca il fiato. Dai vabbè, capisco quanto sono umano, debole di netto. Tu no, ma il tuo ricordo vive dentro di me. Ciò che c'è stato adesso non c'è. Ormai sogno poco però capito che la vita è un equilibrio e solo vacillando si può evitare di cadere. Invece saltando i ricordi e negando si cade come scimpanze. Ma ci ripenso ogni tanto a te. Qualche sera buia mi fa uno strano effetto. Ma che vuoi farci se penso a te? Non faccio mica apposta, è un piccolo difetto. E sì, mi rimprovero, ma poi perché? In fondo un bel ricordo, anche se non è perfetto, può dar senso alle cose quando non c'è. Come andare al cinema o leggere un fumetto. Tu no, ma il tuo ricordo vive dentro di me. Ciò che c'è stato adesso non c'è. Ormai sogno poco però capito che la vita è un equilibrio e solo vacillando si può evitare di cadere. Invece saltando i ricordi e negando si cade come scimpanzé.